Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti da Deborah Rosciani a Salva Danaio e ben ritrovati appunto nel nostro programma in una giornata che per i mercati finanziari è di nuovo piuttosto negativa e chissà che non abbiamo già trovato anche il tema del quale parleremo per tutta l'estate, come già successo nelle due estati precedenti. Appunto, chissà che il Portogallo non sia il tema su cui concentreremo tutte le attenzioni, lo vedremo. Il tema di mercato naturalmente lo affronteremo anche nei prossimi giorni, magari venerdì faremo un punto della situazione sull'andamento dei mercati finanziari internazionali data l'apertura di questo nuovo fronte. Oggi però parliamo invece di una modalità di risparmio che è stata decisamente gettonata dalle famiglie italiane negli ultimi anni di sbalzi d'umore molto consistenti da parte dei mercati finanziari internazionali. Parliamo dei conti di deposito e ci chiediamo se convengono ancora. Le ultime aste sui titoli di Stato hanno visto i tassi di interesse tornare a crescere in modo deciso. Questo dato non si può sottovalutare quando si confronta l'investimento obbligazionario con quello in altri prodotti finanziari, a partire appunto dai conti di deposito, spesso paragonati a BOT e BTP. I salvadanai sono ormai ben lontani dal garantire gli interessi visti negli anni passati, quando avevano toccato dei veri e propri picchi che superavano anche il 4% e hanno toccato il 5%. Eppure molti italiani continuano a sceglierli perché vogliono che il loro risparmio sia lì, bene in vista, pronto ad essere liquidato senza perdite in caso di necessità. Salva Danaio fa il punto della situazione sull'andamento di questi prodotti analizzando le tendenze, le caratteristiche dei prodotti offerti. Ci sono, lo abbiamo scoperto proprio in questi ultimi due giorni documentandoci sull'argomento, che ci sono tantissime offerte estive da parte di molte banche, analizzando però anche i vincoli, le scadenze che consentono di avere i rendimenti più interessanti. Vi ricordo che anche il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha riconosciuto nelle sue considerazioni finali del 31 maggio come i depositi bancari siano i grandi beneficiari dei flussi di risparmio delle famiglie italiane, soprattutto lo è stato questo tra il 2011 e il 2012. 800 24 00 24 è il numero verde per discutere con noi dell'argomento, per farci le vostre domande che gireremo a Vito Lops del Sole 24 Ore. Vito, ciao, bentornato. Buongiorno. Per una volta tanto lo abbiamo sottratto alle TV nazionali, oggi si è degnato di venire a Radio 24. Naturalmente sto scherzando, Vito è sempre il nostro grande amico. Saluto e ringrazio Egisto Franceschi, direttore operativo di Banca Sistema. Buongiorno. Grazie, benvenuto. Buongiorno. E in collegamento telefonico abbiamo Manfredi Urciuoli, direttore commerciale di confrontaconti.it. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, prima di tutto questo però andiamo un po' a vedere oggi questa preoccupante giornata di borsa. Seduta nera per i mercati finanziari europei, per la verità c'è stato anche un leggero miglioramento rispetto alla partenza che era stata decisamente brusca. L'epicentro stamattina delle preoccupazioni è il Portogallo, Lisbona, una crisi di governo, già due i ministri che si sono dimessi, pronti a rassegnare le dimissioni altre due, un paese come sapete in grave crisi finanziaria, è stato sottoposto ad un piano di salvataggio anche appunto il Portogallo, ma questa crisi di governo potrebbe compromettere l'evoluzione di questo salvataggio e di conseguenza i mercati stamattina si sono preoccupati non poco rispetto alle vicende politiche di Lisbona. Lo stesso listino portoghese perde più di 5 punti percentuali, ha trasferito tutta questa tensione prima di tutto a Madrid che perde circa 2,5 punti, un po' più distanti le perdite delle altre piazze europee, ma Milano, naturalmente considerato un altro paese periferico, è tra i listini che perdono di più, -1,87% in questo momento. Parigi e Francoforte -1,7, Londra -1,61, insieme al Portogallo preoccupazione anche per la tensione in Egitto che ha riportato il petrolio sopra i $100 al barile a New York e sopra i 105 a Londra. Abbiamo avuto un taglio di rating da parte di Standard & Poor's su alcune delle principali banche europee e poi altre statistiche cinesi che confermano la contrazione dell'economia di quell'area. Stamattina davvero abbiamo l'imbarazzo della scelta, dei temi che penalizzano i mercati e questa è la situazione in questa terza giornata del secondo semestre del 2013. A Piazza Affari, peggiori titoli la Popolare dell'Emilia Romagna, -4,26, UbiBanca, -4,10, GTEC, Lex, Lottomatica, -3,75, Unicredit, -3,57, segno più su Tenaris che sta guadagnando il 6,29%, qua abbiamo anche una storia da raccontare relativamente a questa società. Ha toccato anche un più 13% in avvio. A spingere le azioni, le indiscrezioni secondo cui un gruppo produttore di tubi per la trasmissione del petrolio, è il business in cui opera Tenaris, avrebbe presentato una denuncia negli Stati Uniti nei confronti dei concorrenti in 9 nazioni per la vendita di merci sotto costo negli Stati Uniti, beneficiando in alcuni casi anche di sussidi del governo. Finmeccanica più 1,39, Mediaset in rialzo di un punto. Per la borsa è tutto, andiamo subito al tema di oggi: famiglie, risparmio e conti di deposito. La stagione burrascosa degli spread alle stelle, dei picchi nei rendimenti dei BTP, delle paure per il debito pubblico, che ora con i dovuti scongiuri sembra aver esaurito la sua fase peggiore, ha senz'altro modificato le tendenze e le abitudini di investimento degli italiani. Se da un lato i titoli di Stato sono tornati a rappresentare un investimento molto accattivante, dall'altro anche i conti deposito proposti dagli istituti bancari, i cosiddetti salvadanai, nei mesi passati, hanno potuto vantare performance non da poco, abituando i risparmiatori a tassi di interesse spesso superiori al 4% lordo e che in alcuni casi hanno raggiunto anche quota 5%. Le banche erano a caccia di liquidità ed erano disposte a pagarla anche ad un prezzo molto caro. Molte famiglie si sono lasciate ingolosire, versando nel solo 2012 un totale di 51 miliardi nei conti di deposito, al netto dei disinvestimenti e facendo aumentare la raccolta al dettaglio del 3,9%. Gli italiani a fine 2012 detenevano 1.060 miliardi di euro di depositi bancari, ai quali vanno sommati 344 miliardi di raccolta postale, che nel corso dell'anno passato hanno registrato un più 15 miliardi. Ora però, insieme allo spread, sono calati anche i rendimenti di questi prodotti. Sono poche le banche che arrivano ad offrire il 3%, ma in ogni caso l'investimento è ancora sufficiente a battere l'inflazione. In molti si chiedono se possa considerarsi davvero conveniente, tenendo conto anche del peso delle nuove tasse, che sono andate a colpire i depositi bancari. (0024) 0024 il numero verde per le vostre domande se volete intervenire in diretta. Come al solito vi ricordo anche tutte le altre alternative per interagire con noi: 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Scriveteci se volete anche una mail all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Siamo su Facebook, siamo su Twitter, non vi possiamo sfuggire. Saluto Claudio, nostro amico camionista, che mi scrive: non hai niente di buono oggi da raccontare? Come no, raccontiamo di questi prodotti di investimento che sono stati molto gettonati dalle famiglie italiane, lo riconosce anche la Banca d'Italia. Ma perché, per quale motivo? Perché naturalmente le banche hanno molto puntato sulla raccolta di liquidità attraverso questi strumenti nel momento in cui facevano anche fatica in questi anni di crisi. Vito Lops, magari ricordiamolo insieme, a fare raccolta appunto sul mercato, il mercato interbancario, che è stato molto rigido, molto più bloccato, appunto di conseguenza in qualche maniera le banche una raccolta dovevano farla, e riconoscere anche questi livelli di interesse ai risparmiatori, alle famiglie. Certo, nel momento di difficoltà hanno fatto appello alla forza finanziaria del patrimonio delle famiglie italiane, da sempre grandi risparmiatori, e quindi hanno chiesto soldi alle famiglie piuttosto che nel mercato interbancario, visto che la fiducia, che è venuta un po' meno negli ultimi anni, anche se l'Euribor, che dovrebbe esprimere la fiducia, indica paradossalmente che è al massimo storico. È vero, perché l'Euribor è bassissimo, di questo ne beneficiano le famiglie che hanno dei mutui a tasso variabile, appunto agganciato a questo parametro, mutui agganciati a questo parametro. Magari ci ritorneremo più avanti in qualche altra trasmissione su questi argomenti, Vito, però insomma il tema è questo. E da ING Direct, che è stata sicuramente la prima banca tanti anni fa a lanciare un prodotto di questo tipo, poi tutte le banche italiane operanti sul territorio si sono adeguate, Vito. Certo. Le banche, diciamo, price makers erano sempre quelle un po' più online, più aggressive, poi si sono adeguate anche le banche tradizionali, che hanno rispolverato il conto di deposito, tra cui anche Banca MPS, lo ricordiamo, Unicredit, insomma tutte le principali banche tradizionali. E adesso c'è stato un po' una specie di sconvolgimento in questo mercato, che parte dalle dichiarazioni della Federal Reserve del 19 giugno, che hanno smosso un po' tutto il mercato dei tassi di interesse, perché se dagli Stati Uniti viene, diciamo, meno l'impegno di aumentare la base monetaria per i prossimi mesi, vuol dire che i tassi tendenzialmente sui mercati obbligazionari e a cascata, quindi anche sui mercati, sui conti di deposito, si spera, sono visti in rialzo. Abbiamo visto anche negli ultimi giorni il tasso sul Bund tedesco che è andato all'1,8%, ricordiamo che a inizio anno era all'1,3%, quindi è aumentato di 50 punti base, parliamo del titolo a 10 anni, comunque molto indicativo di questa tendenza in questo momento ad aumentare i tassi. Certo, quindi aumenteranno i rendimenti delle obbligazioni, di conseguenza anche i conti di deposito. Se vorranno continuare a mantenere l'appeal nei confronti delle famiglie italiane, dovranno adeguarsi a questi livelli e magari riconoscere qualcosa in più. Questo Questo potrebbe essere potrebbe essere senz'altro. uno scenario. Manfredi Urciuoli, direttore commerciale di Confrontaconti.it, ci fa una breve panoramica di quali sono le scelte sui conti di deposito più gettonate adesso dai risparmiatori italiani? Le scelte più gettonate sono legate comunque sia ai tassi di interesse, come sempre in questi casi, e quindi anche in questo momento i risparmiatori italiani si stanno rivolgendo alle banche che offrono tassi più interessanti, principalmente banche online, banche che stanno giocando una partita piuttosto aggressiva su questo settore. Ci sono diverse banche, magari non notissime al grande pubblico, ma al pubblico interessato di conti deposito sicuramente sì. Una banca sicuramente è rappresentata oggi, Banca Sistema, dal collega Gisto Franceschi, poi ci sono diverse altre banche, Sì, per preferirei non esempio fare su. nomi. No, vabbè, ma voglio dire, se è tutto trasparente e No, se sono certamente notizie note sul mercato, ecco, esatto, non è un Banca problema. IFIS è sicuramente una specialista del settore, anche VL ha dei tassi abbastanza aggressivi al momento. Di banche che offrono dei tassi interessanti ce ne sono diverse. Di sicuro sono scesi molto rispetto a qualche tempo fa, ma comunque si offrono dei rendimenti superiori rispetto a quelli offerti dai titoli di Stato ancora e considerevolmente superiori rispetto all'inflazione, che è in Infatti, forte allora la rialzamento. concorrenza adesso sicuramente proteggono dall'inflazione, ma devono appunto esprimere tutto il meglio per affrontare la concorrenza dei titoli di Stato. E Gisto Franceschi, arrivo a lei, è stato citato Banca Sistema perché in questo momento proponete tra le offerte più remunerative sul mercato per quello che riguarda la scadenza a 5 anni, cioè se si vincola un deposito, una certa cifra per questi 5 anni, per 60 mesi il tasso lordo, credo, riconosciuto è del 4,60%, che credo che sia una delle più alte. Quali sono le richieste più importanti, appunto, lo dico anche a lei, dei risparmiatori che si rivolgono alla vostra banca? Questa è una scadenza particolarmente gettonata? Allora, intanto premetto che al 4,60 più noi paghiamo l'imposta di Sì. bollo e il bollo quindi in realtà è più vicino al 4,75. È molto gettonata. Noi abbiamo lanciato il 3 anni l'anno scorso, abbiamo visto un response molto positivo e allora abbiamo detto lanciamo anche il 4 e 5 anni. E da quando l'abbiamo lanciato più del 50% dei nostri conti deposito sono oltre 3 Quindi anni. avete intercettato una domanda latente che Sì. c'era e che appunto le altre banche, forse ancora non tutte, hanno raccolto. E quindi è andata bene. Sì, è andato molto bene. Fra l'altro, noi allo stesso momento abbiamo detto, però dobbiamo avere un sistema per permettere a chi ha bisogno di poter svincolare i soldi senza magari perdere gli Infatti, interessi. perché uno dei temi è questo. Adesso le faccio introdurre appunto questa nuova formula che avete proposto alla vostra clientela e che naturalmente se si vincolano i depositi poi chiaramente si possono svincolare rapidamente, però si perde tutto il rendimento chiaramente promesso. E quindi voi avete inventato che tipo di formula per far appunto anticipare eventualmente Noi una somma se si abbia la necessità? abbiamo creato il Siconto Subito, che in pratica è un anticipo sullo svincolo del conto deposito. Il conto deposito continua ad andare avanti, però uno può ritirare delle somme a dei tassi molto, molto competitivi e quindi continuare a essere remunerato sul conto deposito e avere comunque la liquidità. Quindi questo anticipo voi lo considerate la stregua di un prestito che fate È al considerata la stregua risparmiatore? di un prestito garantito dal proprio conto deposito e questo ci permette di fare dei tassi molto molto interessanti. I Sul prestiti, prestito, cioè beh, costa poco. i prestiti sul mercato oggigiorno variano tra i 9 e il 12%. Noi al massimo arriviamo a 7-10, ma più realisticamente siamo intorno al 5-6. Insomma, io adesso non so che cosa stiano pensando anche le altre banche, però Vito, devo dire che l'offerta si sta sofisticando sempre di più, perché svincolare una parte del deposito e farla considerare un prestito da parte della banca è anche un'idea originale. Certo, tra l'altro segnalo che importante sempre che vengano capite queste formule, perché analizzando in questi ultimi mesi da vicino l'offerta nel dettaglio di tutte le altre banche, emerge che non sempre è possibile recuperare la somma vincolata, nel senso ci sono alcune formule da parte di alcune banche in cui lo bloccano e basta, non fanno svincolare per niente. Per il periodo in cui viene vincolata la somma, il risparmiatore non può più accedere alla stessa somma. Si tratta ovviamente di alcune proposte all'interno di un pacchetto generale offerto da alcune banche, però è un tema molto interessante da approfondire quando i risparmiatori si approcciano a un conto di deposito piuttosto che a un altro. Urcioli, ci conferma questa tendenza, non perché metta in dubbio naturalmente quello che ci racconta Vito, ci sono molte banche che se vincolano non svincolano neanche se vai lì a pregare in ginocchio? Sì, assolutamente sì, ci sono sempre state, quella è la value proposition di quelle banche, comprensibile anche a fronte di queste, della rigidità di questi vincoli, di solito riconoscono dei tassi di interesse più elevati. Ecco, io quello che consiglierei ai consumatori è questo, di verificare bene quali sono le condizioni e vedere che per ciascuna per ciascun vincolo in più vengano riconosciuti dei tassi più elevati. Anche un prodotto a 5 anni è sicuramente un po' più vincolante per un consumatore, però a fronte di quello è normale vedersi riconoscere un tasso di interesse più elevato. Certo, senta, ho visto su un pezzo pubblicato dalla concorrenza proprio lunedì 1 luglio su Corriere Economia una panoramica appunto delle offerte estive che le banche stanno lanciando proprio come se fossimo in periodo di saldi anche nel settore bancario appunto, ma come mai si sono a suo avviso così svegliate proprio in questo frangente per lanciare queste proposte nuove nel settore dei conti di deposito? C'è una richiesta particolarmente stringente di liquidità nel comparto bancario? Urcioli ha questa sensazione oppure così sono nell'ottica di normali strategie commerciali che le banche adottano? La mia visibilità è che si sia nell'ottica delle normali strategie commerciali. Ciascuna banca ha le proprie esigenze di liquidità, ha i propri cicli di liquidità, ha anche dei cicli finanziari diversi rispetto alle altre, anche la chiusura del bilancio prevista in periodi diversi, e quindi può perseguire strategie differenti in fase di raccolta del denaro. Noi abbiamo visibilità di alcune banche che in questa fase non sono per nulla aggressive, perché non hanno nessun interesse a raccogliere denaro, anzi forse ne hanno raccolto troppo nei mesi passati. Con la Banca Centrale Europea, ecco, quindi magari non hanno bisogno di intercettare il risparmio della famiglia. Ne hanno magari raccolte troppe nel mercato proprio dei conti deposito, no? A fronte di offerte particolarmente aggressive si sono riempite la pancia e ora non hanno più voglia di raccogliere. Ci manca pure che si lamentino del fatto che hanno raccolto troppo, perché questa è veramente una visione originale, Urcioli. Comunque, comunque sia qualsiasi cosa, se ne hanno raccolto troppo, che ne diano un po' anche sul mercato con mutui e prestiti alle famiglie e alle imprese che ne hanno bisogno. Ecco, allora ci mettiamo questa riflessione. Io quello che mi viene da dire è, nel momento ne raccolgo troppo, allora mi viene il dubbio di aver offerto una condizione troppo aggressiva. Ecco, quello era il senso di certo. Di quello e allora adesso tirano un pochino i remi in barca. Grazie Urcioli, grazie anche agli altri nostri ospiti, ma naturalmente il saluto è solo temporaneo perché abbiamo la nostra prima pausa. Franceschi, lei sa che ha suscitato grande interesse con il meccanismo che ci ha raccontato prima del prestito per riscattare una parte del conto di deposito, perché non si capisce bene la relazione fra la remunerazione riconosciuta sul conto e il tasso applicato a questo prestito teorico. Salva Danaio. Chi sceglie un conto deposito oggi non può dimenticarsi di fare attenzione alle nuove tasse che nei mesi scorsi sono andate a colpire questi prodotti, che un tempo potevano vantare la possibilità di un investimento a zero spese. Il decreto fiscale del marzo 2012 ha allargato anche ai depositi l'imposta proporzionale, la cosiddetta mini patrimoniale, dai quali in un primo momento erano rimasti immuni. Lo 0,10 nel 2012, che si è trasformato nello 0,15 dall'inizio di quest'anno, colpendo i salvadanai così come tutti gli altri prodotti finanziari. Quello nei conti deposito viene considerato quindi come un investimento a tutti gli effetti. E c'è anche il rischio, si aspetta su questo ancora un chiarimento dall'Agenzia delle Entrate, che anche chi decide di svincolare con anticipo le somme rinunciando al rendimento debba pagare. Alcuni istituti hanno deciso di andare incontro ai clienti proponendo offerte che prevedono che la banca si accolli, di fatto, il pagamento del bollo. Ma non è detto che queste promozioni proseguano e vengano rinnovate ogni anno. Se si somma a questo balzello, che prevede un tetto minimo di 34,20 euro, al 20% di imposta sulle rendite finanziarie, da pagare sugli interessi ottenuti a fine anno, il dubbio che il gioco valga o meno la candela può farsi davvero consistente, soprattutto per chi non ha che una piccola somma da investire. E attenzione dunque anche alla tassazione applicata sui prodotti di investimento, visto che peraltro negli ultimi due anni è stata rimaneggiata e rimodulata tante volte, quindi attenzione anche a questo aspetto quando scegliete un qualunque prodotto di investimento e oggi anche quando scegliete i conti di deposito, che prima erano esenti appunto da qualsiasi tipo di tassazione e adesso invece sono stati toccati anche questi. Allora, prima di sentire le tantissime domande degli ascoltatori, Marcello, Giulia, Elena, Silvia, abbiate ancora un minutino di pazienza perché ho lanciato questo chiarimento da far fare a Banca Sistema sulla sul modulo praticamente di disinvestimento che Banca Sistema appunto ha studiato per chi ha acceso presso questa banca un conto di deposito ma si trova nella necessità di disinvestire magari una somma anticipatamente rispetto al vincolo prefissato inizialmente. E allora molti ascoltatori dicono: ma quale vantaggio c'è nella formula che avete studiato? Se io vi presto i miei soldi, voi mi riconoscete il 3 e il 4%, ma se io ne devo svincolare una parte ci devo pagare almeno il 7%, che è il tasso equivalente ad un prestito sul mercato. Franceschi, non credo che sia la prima volta che sente questo rilievo. No. E intanto vorrei fare due premesse. Uno, che rimane sempre l'opzione di svincolare in maniera parziale o totale l'ammontare in tutti i momenti. Non siete tra quelli che vincolano e basta e no, non potete, noi, non fate, anzi, più mettere noi siamo rapidissimi nello svincolare. Secondo, per il si conto subito, i nostri operatori di Banca Sistema sono addestrati per fare una simulazione per il cliente e per fargli vedere se effettivamente è a suo beneficio o no. Se non è a suo beneficio glielo diciamo chiaramente, e tranne se il cliente insiste per andare perché avanti ha bisogno, noi vogliamo dissuaderlo e gli diciamo: ti conviene di più svincolare la somma. Quindi è un meccanismo di disincentivazione, chiamiamolo così. Sì. Comunque, per fare un esempio un po' specifico, come i caricamenti che sono sulle polizze assicurative. Vito annuisce. Comunque, per fare un esempio specifico, un cliente che magari mi ha vincolato una somma a 24 mesi l'anno scorso, si porta a casa un rendimento del 5,20 lordo. Noi paghiamo l'imposta di bollo, quindi quello che ci costa è il 5,35. Adesso, a un anno di distanza, ha bisogno di tirar fuori un po' di soldi. Lui continua a portarsi a casa il 5,20 lordo, però se vuole portarsi a casa prendere un anticipo su una parte di questo prestito, diciamo, o 5.000 dei 10.000 euro che ha depositato, noi gli chiediamo il 5,40, quindi uno 0,05 rispetto a quello che ci costa il suo deposito, con in più il fatto che lui comunque si porta a casa il rendimento su due anni e di tasso di interesse ci paga solo un anno. Ho capito, quindi insomma alla fine si va un po' a compensazione. A compensazione, ma in realtà a beneficio del cliente, perché portandosi a casa il tasso del 5,20 su due anni e invece pagando il 5,40 certo, su per farlo su capire un anno bene solo. Insomma bisogna fare delle simulazioni molto attente, per cui avete sicuramente anche questo diritto prima di accendere anche il conto, quindi prendete anche in considerazione il fatto che possiate aver bisogno di svincolare una parte della somma in tempi anticipati. E i nostri operatori vi diranno esattamente quanto vi costa, se vi conviene o se non o vi se conviene. Bene. Allora andiamo invece adesso alle preoccupazioni degli ascoltatori, che sono un po' sempre le stesse quando si parla di conti correnti, in questo caso di conti di deposito. Allora sentiamo insieme le due ascoltatrici che per prime hanno chiamato, Giulia dalla provincia di Brescia ed Elena da Treviso, cominciando con Giulia. Buongiorno. Buongiorno signora Deborah, a tutti. Ci dica. È sempre molto chiara. Grazie. Allora io Il mio ragionamento è stato questo: vedendo la situazione molto caotica, io avrei a disposizione degli investimenti. So, ditemi se dico giusto, che il fondo interbancario tutela i depositi fino a 100.000 euro. Sì, esatto. Ecco, investendo su più istituti bancari, su ognuno 100.000 euro, dovrei essere coperta su tutti gli istituti. Esattamente. Ecco, alla luce della settimana scorsa con l'Ecofin, si sa qualcosa di preciso se è così? Ancora? Sì, sì, quando hanno varato praticamente il piano per, chiamiamolo così, ma questo termine non voglio neanche usarlo, il fallimento ordinato del sistema bancario, ci sono delle novità sui fondi interbancari di tutela dei depositi, Vito? Ma, che tu ti ricordi? No, prevale ancora incertezza su questo. Non c'è Delle trattative lunghe, per cui Giulia, intanto lei si prenda le cautele che deve sui suoi risparmi. Se ritiene di essere più sicura, intanto prendiamo in considerazione la normativa italiana che tutela in luogo dei 103.000 euro precedenti adesso 100.000, e molti risparmiatori. Che al momento tutela più in Europa. Infatti, tra l'altro, quindi insomma si possono scegliere. Che cosa sta indicandomi Egidio Franceschi, punteggista Franceschi, che mi sta segnando un appunto, ma glielo lascio dire tranquillamente. No, volevo anche puntualizzare che comunque è una normativa europea il fondo interbancario di tutela dei depositi, quindi anche se ci possono essere delle incertezze in Italia, comunque è una normativa europea che tutela i depositanti. Comunque insomma un modo per essere tranquilli è quello di segmentare in più banche, appunto poi ci sono costi aggiuntivi, che costi doppi, oneri doppi, tassazione doppia, però se questo mette al sicuro appunto le preoccupazioni delle persone, è una modalità che si può scegliere. Sentiamo anche Elena Treviso, che credo avesse una domanda simile. Pronto? Sì. Buongiorno e grazie a tutti, il vostro lavoro è prezioso. Grazie Silvia. Senta, io volevo chiedere se il conto di deposito vincolato è tutelato dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi indipendentemente dalla durata del vincolo. Ah Elena, grazie. Franceschi, ci aiuti lei? Sì, sì, assolutamente. È in base alla persona. Può essere qualsiasi durata e, come ha detto la persona che ha chiamato prima, uno può essere su molteplici istituti e quindi avere 100.000 su ogni istituto e essere tutelato. Silvia da Milano, buongiorno. Buongiorno, guardi, io volevo fare una considerazione forse banale, ma sì. Il motivo per cui ho parcheggiato, diciamo, i miei risparmi nei conti deposito, più che la golosità di tassi alti, è stata la, diciamo, non certezza, il termine troppo forte, ma la quasi fondata speranza che neanche un centesimo andasse perduto, nel senso che rispetto ai vari mediatori finanziari o impiegati uffici a titoli, i conti deposito mi hanno sempre stato tentato una certezza, cioè quello depositi e quello avrai tra 8 mesi, una certezza che nessun altro mi ha mai offerto. Certo, Silvia, poi tra l'altro questa crisi ci ha anche insegnato che, per la verità, ormai prodotti di investimento assolutamente privi di rischio non esistono più, perché anche il titolo di Stato, che era considerato una cassa forte fino a pochi anni fa, adesso è diventato invece forse uno degli strumenti addirittura paradossalmente più rischiosi delle azioni. Vito Lops, stiamo addirittura un po' considerando questo ribaltamento di un paradigma, se certo. vogliamo. Ormai sui mercati finanziari sono diventati ballerini anche i titoli di Stato. Oggi, ricordiamo, i titoli del Portogallo sono arrivati all'8%, sì. Quindi ovviamente ogni paese ha una sua storia. Ma i bond sovrani, dal 2009, da quando la Grecia è stata attaccata per la prima volta, hanno perso quello status quo di sicurezza. Chissà se le banche portoghesi propongono anche dei conti di deposito in questo momento per intercettare qualche un po' di raccolta, ma insomma non ci interessa. Manfredi Urcioli, vorrei tornare da lei per un commento, se ritiene, sulle riflessioni che abbiamo sentito dalle parole delle prime ascoltatrici di oggi, e che ne pensa di questo conto di deposito che, se si vuole svincolare in parte, questa proposta di Banca Sistema richiede anche al risparmiatore un riconoscimento, come se fosse un prestito, in sostanza, questo svincolo. Ci sono anche altre proposte singolari sul mercato. Noi abbiamo fatto prima una panoramica, diciamo, dei tassi di remunerazione riconosciuti in questo momento, ma altre proposte commerciali un po' originali come questa? Questa mi sembra sicuramente la proposta più originale offerta dal mercato attualmente. Il mercato comincia ad essere abbastanza maturo, e che offerte veramente originali cominciano a vedersene abbastanza poche. Possono essere offerte delle durate piuttosto lunghe, dei vincoli particolari, dei rendimenti differenziati in funzione dell'importo, ma questa è sicuramente un'offerta molto originale. In realtà mi viene da dire, forse non tanto originale quanto si possa immaginare, ossia sul fronte dei conti depositi è sicuramente un'offerta originalissima, ma le banche, i promotori finanziari erano abituati ad operare in questo modo, soprattutto nel momento in cui un portafoglio titoli andava male, il loro cliente aveva bisogno di liquidità. Piuttosto che far svincolare il denaro al loro cliente, offrivano dei prestiti. Quindi in realtà questa è una formula che le banche promotori finanziari hanno sempre utilizzato, e Banca Sistema l'ha proposta anche sul fronte dei conti di deposito. Quindi in merito a lei per averlo fatto. Potrebbero esistere delle formule alternative per consentire di ottenere lo stesso risultato, ad esempio lo svincolo parziale che offre la stessa Banca Sistema è una modalità alternativa per consentire al consumatore di ottenere lo stesso risultato. C'è poi chi propone anche altro, per esempio stavo guardando un po' così Fineco, che ha il suo Cash Park, per chi sottoscrive entro il 31 agosto 2013 dà il via ad un piano di accumulo, un pack in uno degli 11 comparti dei fondi appunto dell'offerta, e per chi fa questa scelta matura subito sul conto di deposito un rendimento del 2,5% lordo annuo fino a 24 mesi, quindi qua in realtà si aggancia al conto di deposito un piano di investimento, per cui insomma le formule sono tante, sono sicuramente molto più complesse e complicate del passato, per cui l'invito è di come dire, tenere d'occhio in maniera molto attenta appunto la proposta della banca, poi chiaramente insomma qua la scelta non ci manca. Eccoci ritrovati in diretta con il tema dei conti di deposito, e ricominciamo appunto con i nostri ascoltatori. Mi interessava molto la richiesta di Marcello da Roma all'800240024. Marcello, benvenuto. Buongiorno. Ci dica. Sì, niente, sostanzialmente ho sentito il tema della trasmissione e volevo fare una domanda a lei e ai suoi ospiti. In buona sostanza io ho una propensione praticamente nulla all'investimento. Quindi molto, molto prudente, Marcello, sì. Sì, ma perché io sono rappresentante di commercio e purtroppo ho una famiglia e sono violentemente esposto. Ma diciamo, per fortuna che ha una famiglia, Marcello, perché purtroppo? E quindi la deve proteggere. No, purtroppo sono esposto agli andamenti del mercato, quindi voglio dire, alla mia famiglia la continuità di tutte le attività, devo un attimino tenere sempre dei soldi a disposizione, perché, ecco. E quindi quando il mercato crolla, crollano direttamente anche i compensi, ma non tutti gli impegni che uno appunto ha assunto. Certo. Detto questo, avendo dei depositi, diciamo, secondo l'istituto che mi segue, che magari erano alti per essere semplici conti correnti, mi hanno sottoposto vari investimenti che io non volevo effettuare, appunto, con dei vincoli che non accettavo. Alla fine ho proposto per dei buoni di risparmio. Volevo sapere, non vorrei essere banale, perché mi pare che la preoccupazione, anche sentite le ascoltatrici della mia telefonata, volevo sapere intanto se sono coperti i buoni di risparmio dal fondo di tutela interbancario per la somma che conosciamo ormai dei 100.000 euro per istituto. E personalmente io ad esempio ne ho sottoscritti uno a 18 mesi, un tasso lordo credo era del 3% con un istituto importante, però ho trovato diciamo poche informazioni poi dopo a garantirmi il fatto che effettivamente siano legati al conto corrente come socio, cioè io li trovo nel mio estratto conto come una voce a parte e posso svincolare giorno per l'altro, però non so se fanno parte, se sono assimilabili ai conti il deposito o al conto corrente protetti dal fondo interbancario. Grazie Marcello, buona giornata. Allora Vito Lops ci aiuta a chiarire un po' la differenza tra il conto di deposito e un prodotto di investimento di questo tipo, il buono di risparmio. Mi viene in mente il libretto postale, il buono fruttifero appunto della posta, piuttosto come o il pronto controtermine, anche di strumenti più vicini possibili forse al conto di deposito. Sì, diciamo che i conti di deposito sono una evoluzione di quei prodotti come i buoni di risparmio, i buoni postali, e quindi hanno lavorato molto sulla durata e sui rendimenti, ma sostanzialmente le caratteristiche basi sono simili, quindi il rendimento in cambio di un vincolo, di una durata. Ma mentre il conto di deposito è tutelato dal sistema interbancario di tutela dei depositi, è protetto, per il buono di risparmio vale lo stesso? Non ce lo ricordiamo? Bisognerebbe andare a vedere? Bisognerebbe anche leggere nel foglio informativo, perché io credo ci dovrebbe essere una clausola che lo dice. dipende da come, sì. Esatto, dipende da come hanno inquadrato il prodotto, se l'hanno messo in ciò che si dice nel gergo, forma tecnica di conto deposito o simile a conto corrente, è tutelato. O diversamente potrebbe non essere tutto. Tra l'altro stavo considerando la caratteristica di questo prodotto, secondo quanto ci ha spiegato l'ascoltatore, ha vincolato questo libretto a 18 mesi per un 3% di rendimento, che è un po' simile anche, vedevo adesso il vostro, Franceschi, ma credo che mediamente i tassi di remunerazione su scadenza di un anno e mezzo siano questi, per cui forse anche in base a queste caratteristiche possiamo tranquillizzare l'ascoltatore, no? Però ecco, vada a guardarsi bene il contratto per vedere se c'è la clausola che indica lo scudo del fondo interbancario. Chi sentiamo adesso? Gianfranco da Vicenza, che praticamente mi dice: guarda, hai fatto un lavoro completamente inutile fino a questo momento perché io non ho capito nulla. Gianfranco, buongiorno, sto scherzando ovviamente. Dica. Niente, sono Gianfranco, cosa sono i conti di deposito e come si attivano? Grazie, e vi ascolto per radio. Grazie Gianfranco, dobbiamo ripetere tutto quanto, però insomma facciamo un po' di ABC per gli ascoltatori, anche a beneficio degli altri che non hanno capito il tema di questa mattina, che è un tema del quale stiamo parlando da molti anni. Manfredi Urcioli, le faccio fare un po' il professore. Allora, se dovesse spiegare ad una persona che non ne sa nulla che cos'è il conto di deposito, ricominciamo da zero. È un prodotto finalizzato alla gestione del risparmio del risparmiatore, ossia un prodotto che serve per depositare denaro ed ottenere in cambio degli interessi. Questa è la definizione più semplice possibile. La caratteristica del prodotto è proprio quella di riconoscere degli interessi ed offrire tutte le garanzie offerte da un normale conto corrente. Ecco, quando sono questa garanzia del fondo interbancario, certo. Quando questi prodotti sono nati riconoscevano un tasso che era molto interessante, ma solamente diciamo a 12 mesi alla fine dell'anno. Poi nel tempo invece le banche hanno adottato anche politiche diverse, hanno permesso di vincolare determinate cifre per un determinato periodo di tempo, ma sulle scadenze riconoscendo rendimenti diversi. Assolutamente sì, la fase iniziale è sicuramente una fase oramai lontana nel tempo. In qualche periodo storico sono stati riconosciuti dei tassi molto elevati, probabilmente anche fuori mercato, ma era una strategia di marketing, quella era una strategia di crescita. È stato inventato il prodotto ed era una strategia necessaria per comunicare le caratteristiche di questo prodotto, in particolar modo agli albori, che con il conto arancio succedeva questo, e parallelamente quando è stata lanciata che banca era successo questo. Ormai il settore è maturo, certo, per cui le banche hanno cercato di differenziarsi in tutti i modi possibili, e la differenziazione sugli orizzonti temporali, sulla possibilità di vincolare oppure no, è una delle caratteristiche che è stata cavalcata più attivamente. Va precisato che non è un conto corrente, magari la banca in questione può proporre insieme al conto di deposito anche il conto corrente, ma sul conto di deposito non c'è la tradizionale operatività, quindi non vi daranno bancomat, non vi daranno carta di credito, non vi potete accreditare. Tra le altre cose, questa caratteristica ora comincia a diventare molto importante dopo le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate. Con la circolare numero 15 dell'Agenzia delle Entrate, è stato proprio l'Agenzia delle Entrate ha indicato abbastanza chiaramente quali sono le caratteristiche distintive di un conto di deposito e ciò che le distingue dal conto corrente. L'Agenzia delle Entrate l'ha fatta per chiarire meglio i contorni dei prodotti su cui applicare la mini patrimoniale, giustamente, no? Tra l'altro una circolare molto recente di venerdì 10 maggio. Bene, un'altra domanda prima di andare verso i saluti, che è quella, sì Marco mi sta mettendo un sacco di ascoltatori, ma in 3 minuti ce la faremo, Marco, speriamo. Anna Maria da Macerata, buongiorno, velocissima, buongiorno, grazie. E saluti a Deborah, che so essere di origine marchigiana. Certamente, certamente. E mi complimento pure perché ho imparato tante cose dalle vostre trasmissioni. Allora, la domanda è questa, ho sottoscritto un conto deposito con una banca che penso seria, anche se piccola, piemontese, non faccio il nome, perché guardo pure a questo, cioè l'anno scorso era un'altra banca che invece c'ha qualche difficoltà, perché pure quello... E quella lì vicino casa, Anna Maria? Prego? È quella lì vicino casa sua? Ce l'ho abbastanza vicino, a 5 km. Pensavo a quella che è un po' in difficoltà, vabbè, comunque lasciamo stare. No, questa sono ancora correntista, però non è questo... Perché il tasso che mi hanno riconosciuto per un anno, ripeto, 10 giorni fa l'ho fatto, non mi sembra molto alto, perché considerando poi la fiscalità, e cioè 2,90 o 2,95, praticamente come un libretto delle poste che mi danno il 3%, almeno fino a dicembre. Ho fatto bene o ho fatto male? Oppure era meglio che li portassi in posta? Anna Maria, credo che abbia fatto una scelta che avrebbe potuto fare scegliendo anche un'altra banca. Vedo anche che Banca Sistema sui 12 mesi riconosce il medesimo rendimento, quindi siamo in linea con il mercato. Franceschi. Sì, assolutamente. Sistema. Poi bisogna vedere un attimo se l'imposta di bollo è a carico del cliente. Esattamente, quindi banca, quella potrebbe essere una scelta che da quello che capisco, lamentandosi della fiscalità, l'ascoltatrice magari è tutta a carico suo. Però ecco, come rendimenti siamo in linea alle proposte che fanno le altre banche. E quindi Anna Maria, non possiamo dire se ha fatto una scelta sbagliata o meno, è diciamo abbastanza così un po' in linea con quelle che stanno facendo anche altri risparmiatori che vogliono posizionarsi su una scadenza di questo tipo. Non so se riusciamo a sentire anche qualcun altro. Marco, no, Giulio d'Alessandria, che aspetta da tantissimo. Velocissimo, Giulio, grazie. Sì, buongiorno Giulio. L'unico problema mio è il rischio del capitale. Se io ho un'obbligazione bancaria che mi dà di meno, se passo sul conto deposito, posso stare tranquillo col mio capitale? Giulio, Franceschi, faccio concludere a lei. Allora, diciamo che il conto di deposito è tutelato dal fondo interbancario, l'obbligazione bancaria forse ha una tutela inferiore. Assolutamente, ecco. Il conto deposito, come anche il conto corrente, è tutelato dal fondo interbancario, quindi fino a 100.000 euro non è neanche la banca stessa, è il fondo interbancario che interviene. L'obbligazione comunque sia il rischio della banca che lo emette. Certo, se la banca ha dei problemi, allora il problema è non essere appunto in grado di rimborsarla e di restituire appunto l'investimento. Abbiamo terminato la nostra trasmissione, abbiamo ancora qualche cos'altro da dire? No, direi di no. Vito Lops, 10 secondi. Sì, volevo segnalare che si parla di tasso annuo, quindi quando leggete quelle promozioni fino a il tasso va diviso, insomma va applicato, e il tasso annuo diviso il periodo in cui il pro quota bisogna pro fare quota. Benissimo, grazie a Manfredi Urcioli, confrontaconti.it, e Egidio Franceschi di Banca Egisto, la sto chiamando Egidio tutta la mattina, non so perché, di Banca Sistema, Vito Lopsi, Il Sole 24 Ore. Grazie a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Fabio Cantadori in assistenza tecnica. Torniamo domani con il voucher babysitting. Buona giornata a tutti.